Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica. Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica, rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura, di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Giulio Caperdoni con voi anche quest'oggi per il volume numero 4, il volume del giovedì di Eclettica, suddiviso in due parti disponibili anche in podcasting. Il volume di questa settimana numero 21 della 14ª ed ultima stagione di Rock FM. Per una radio di cui si è deciso di interrompere l'esistenza, invece una trasmissione che proseguirà in altro modo, in altra sede, ma proseguirà. Questa è una scelta già fatta. Per rimanere informati sul tutto, giulio@radiorockfm.com finché sarà attivo e myspace.com/eclettica che sicuramente rimarrà per sempre attivo. La cosa più abbondante sulla Terra è il paesaggio. Anche se tutto il resto manca, di paesaggio ce n'è sempre stato d'avanzo. Un'abbondanza che solo per un miracolo instancabile si spiega, giacché il paesaggio è senza dubbio precedente all'uomo e nonostante ciò, pur esistendo da tanto, non è esaurito ancora. Sarà perché costantemente muta. Ci sono epoche dell'anno in cui il terreno è verde, altre giallo, poi marrone o nero e anche rosso in certi luoghi, che è il colore dell'argilla o del sangue versato. Ma questo dipende da ciò che nel terreno si è piantato e si coltiva, o non ancora, o non più, oppure da quello che vi è nato naturalmente, senza mano d'uomo, e giunge a morte perché è arrivata la sua fine. Non è il caso del grano, che ancora con un po' di vita lo si taglia, né della sughera, a cui, vivissima, sebbene tanto seria da non sembrarlo, viene strappata la pelle, fra grida. Questo era l'incipit di Una terra chiamata Alentejo, di José Saramago. We'll be right back. You look a little blurry there. Let me zoom out on you. Okay. Okay. Good morning. Got it. Okay, I got you. This is my home. Okay. Wow. Which I am leaving the comforts of for the weekend to explore the Blair Witch. quando da un po' di tempo che non lo faccio vi ricordo dell'esistenza della lista nera, nient'altro che una mailing list, l'iscrizione alla quale permette di ricevere settimana dopo settimana la playlist della trasmissione, ovvero sia l'elenco dei brani, dei film e delle letture che costituiscono Eclettica. Per entrarne a far parte basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com, come ha fatto Francesco qualche giorno fa, non semplicemente chiedendo di essere aggiunto in lista nera, ma mettendo anche una breve frase che vi vado a leggere. Che sia una buona o una cattiva giornata dipende esclusivamente dallo spirito con cui la vivi. La tua buona musica aiuta a fare la differenza. E poi dice grazie Giulio, ma sono io che devo dire grazie Francesco. A proposito di musica, Sunset con le tre parentesi graffe ad aprire e chiudere il nome per Man's Heart Complaint, questo è il titolo del pezzo che ha aperto Eclettica di quest'oggi. Poi Meeting in Woods da parte di Back to Blonde, per proseguire con quello che è uno dei componenti di Peter, Bjorn and John, gruppo che ben conosciamo qua in Eclettica, ma non solo in Eclettica, sono riusciti a far parlare parecchio di sé. Peter Moran, che esce ora con una prova solista dal quale andiamo ad estrarre Social Competence. As I ride past you in the reception room, I can sense no bitterness, can feel no gloom. Are you all this happy? Oh, what has escaped me? As I clean my throat, I mystify. I cut out the essentials, but I never lie. It's no act of random, it's calculated boredom. And when you leave me alone, I pick up the phone to die. There's someone I know who knows how I look when I cry. When I try to get a minute's rest, there's always someone trying to do their best to exhaust me completely, though they phrase it sweetly. Someone's dog or someone's new wet kid, what they didn't do and what they did. Too much information for one brain to sustain, and especially when it doesn't make sense to me. Cause when I try to be sincere, to come a bit near, they leave. Continuerò a dipingere il secondo quadro, ma so che non lo finirò mai. Il tentativo è fallito e non c'è miglior prova di questa sconfitta, o fallimento, o impossibilità, del foglio di carta su cui mi accingo a scrivere. Un giorno, prima o poi, mi volgerò dal primo quadro al secondo, e infine a questo testo, o salterò la tappa intermedia, o troncherò la frase per correre a dare una pennellata sulla tela del ritratto che esse mi ha ordinato, o forse su quell'altro, parallelo, che esse non vedrà. Quel giorno non saprò niente di più di quanto non sappia oggi, che i ritratti sono entrambi inutili, ma potrò decidere se sia valsa la pena di farmi tentare da una forma di espressione che non mi appartiene. Anche proprio questa tentazione significa, in fin dei conti, che non era mia, in fondo, neppure la forma di espressione che ho finito per usare, per impiegare così meticolosamente, quasi obbedissi alle regole di un manuale. Questo era l'incipit di Manuale di pittura e calligrafia di José Saramago. Io mi ricordo come negli anni 70, era il 77 se non ricordo male, dopo l'uscita di Low, uno degli album della trilogia berlinese di David Bowie ci fu un musicista, allora di una certa fama, Nick Lowe, però con la E finale nel nome, che fece uscire per la Stiff dopo qualche mese un EP intitolato Bowie senza la E finale, quindi giocando sul fatto che Bowie l'avesse intitolato come il suo cognome con la E e invece lui rispondeva con il cognome di Bowie senza la E. Tutto questo giro di parole mi è tornato in mente ascoltando la nuova dei We Are Scientists che si è appena chiusa, After Hours, con After e Hours staccati. Così che mi è venuto da pensare, chissà se gli After Hours usciranno con un nuovo disco intitolato We Are Scientists tutto attaccato. E invece non sarà così, perché abbiamo letto in questi giorni del nuovo titolo dell'album degli After Hours come del nuovo singolo che spero di potervi trasmettere a breve. Eclettica, che dopo questo nonsense prosegue con l'ultimo brano della prima parte del volume numero 4, Parts and Labor. Questo è un trio newyorkese, un trio che arriva alla sua seconda prova dopo quella dell'anno scorso intitolata Stay Afraid. Questa nuova prova uscirà il 22 di maggio per Jack Jaguar, si intitolerà Mapmaker e questa è Fractured Skies. Loro si chiamano Parts and Labor.